del mondo o solo il tuo? Sarà la testa che urla più forte di quanto il cuore sia audace. Saranno un padre e una madre, le correzioni da fare, tutte le cose che un giorno hai dovuto lasciare. Sarà che tanto anche se poi sopravvivi al dolore, non te lo vuoi scordare. Sarà che mento lo stesso, anche se so che sei qui per provare a portarmi via. Prendimi l'anima e dille come si fa a non aver paura di questa felicità. Adesso, perché lo so che sei qui per